di Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati qui su Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone. Cominciamo forte questo pomeriggio con un brano mitico, però in una nuova versione. Che pezzo e che contento che cominci così lo Zibaldone di quest'oggi, 17 novembre, su Radio Contrabanda a Barcellona, come tutti i venerdì pomeriggio dalle 5 alle 6. Che bello cominciare con i mitici Kinks in una versione nuova, un nuovo mix di Ray Davies, di Money Talks, un brano del 1974. Banzo, bentornato, buon pomeriggio anche a te, più ergonomico che mai, un'altra volta Zibaldone. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, oggi particolarmente ergonomico perché mi piaga un leggero mal di schiena che mi forza a stare attaccato allo schienale, ma non siamo qui per parlare dei miei malanni, che peraltro sono anche molto leggeri, ma piuttosto per parlare dei Kinks. Steven, come? Per parlare dei Kinks. Per parlare dei Kinks, esattamente, infatti ti stavo per chiedere qual è esattamente la differenza, Steven, fra questa versione del 2023 e quella originale del 1974 contenuta in Preservation Act, seconda parte, volume 2? Guarda, non lo so esattamente, però è un nuovo mix di Ray Davies, io sono molto felice. È stata pubblicata lo scorso 25 ottobre, perché? Perché proprio quest'oggi, 17 novembre, esce il nuovo, insomma, la nuova The Journey Part 2, insomma, il viaggio seconda parte, che praticamente raccoglie il meglio del meglio dei Kinks. Le scelte sono tutte appunto dei fratelli Davies e di Mick Avery. La parte 1 di cui avevamo parlato, di questo The Journey, era uscita, se non sbaglio, nel mese di marzo e raccoglieva molti dei successi dei Kinks. Questa seconda parte raccoglie anche invece delle cose molto particolari, quindi ci sono successi, voglio dire, insomma, dai, meravigliose. Era già stato lanciato Everybody's Star a settembre come singolo, ma ci sono anche tanti singoli B-sides e alcuni ovviamente brani di album di questo viaggio della storica band fondata nel 1963. Insomma, in questa raccolta ci sono da Lola, Sunny Afternoon, A 20th Century Man, Till the End of the Day, See My Friends, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, non male per un amante dei Kinks, è ovviamente qualcosa da procurarsi, come anche il primo The Journey, uscito qualche mese fa. Insomma, noi cominciamo così perché avevamo voglia anche un po' di rock and roll, per ricordarci degli anni 70, anche perché Banjo degli anni 70 parleremo molto, non solo degli anni 70, nella puntata di quest'oggi dedicata alla sinistra rivoluzionaria in Italia. Beh, sì, mi stupisce che si tratti solo di una puntata di un'ora, perché dato il tema poteva durare anche 12 giorni, però sì, diciamo che ci sono delle restrizioni, ecco, tempi radiofonici che oltretutto, lo ricordiamo, da questa stagione sono più brevi, perché siamo passati dal formato di 2 ore al formato di 1. Comunque, la domanda che ti avevo fatto prima era un po' trabocchetto, perché sapevo già la risposta, perché avevo ascoltato sia l'originale. Spiegalo tu ai nostri ascoltatori. Ma probabilmente c'è qualche differenza nella registrazione della voce, non andrei molto oltre. La parte strumentale mi sembra molto simile. Comunque sarebbe interessante, visto che si tratta di un'operazione antologica dedicata ai fan, diciamo, più die hard, più incalliti, fra i quali forse ti posso considerare, so che ami molto i Kinks, sarebbe interessante leggere delle note a margine, perché probabilmente Ray Davies spiega cos'ha di particolare questa versione, e magari ne dà anche il contesto storico nel quale è stata registrata. Lo faremo quest'oggi. Per ora, insomma, godetevi questo brano, anche per insomma cominciare a muovere lo scheletro in vista di questo fine settimana ormai autunnale, e l'inverno arriverà a breve, e parleremo, ve lo dicevamo, di sinistra rivoluzionaria in Italia. Lo faremo insieme all'ospite di questa puntata di Zibaldone, che è lo storico Eros Francescangeli, autore di un libro uscito da poco intitolato Un mondo meglio di così, la sinistra rivoluzionaria in Italia 1943-1978. E poi, insomma, ci sono sempre le ultimissime, c'è un po' di buona musica, tra l'altro un brano, prima di parlare immediatamente con Eros Francescangeli, che vi proponiamo è un'altra nuova uscita, in questo caso nuovissima. Di che tu annunci il brano, Steven, volevo specificare il titolo del libro, Un mondo meglio di così, e questo è un così che cambia nel corso del tempo, perché così del 1978 non era il così del 1943 e evidentemente non è il così del 2023, perché ne è passata di acqua sotto i ponti e l'Italia, diciamo, ha preso la deriva che ha preso, sì. Ecco, ma annuncia pure il brano. No, tanto che se avessimo dovuto fare un brano sulla sinistra rivoluzionaria in Italia nel XXI secolo, un'ora sarebbe stata anche troppo. Comunque, annuncio il brano, andiamo su cose serie, perché è uscito da pochi giorni il nuovo singolo di Andrea Satta, che anticipa il suo primo album da solista. Bellissima è il brano che ci ascoltiamo, Niente di nuovo tranne te è il disco che uscirà il 1° dicembre. Andrea Satta inizia questa traiettoria anche con come solista. Ricordo che Andrea Satta è il cantante dei Ted DeBois, e una band che ha fatto tantissime cose, e sempre anche dal punto di vista di un engagement, di un impegno politico e sociale notevole. Quindi se non conoscete i Ted DeBois andateveli a cercare, ma intanto godetevi questo brano meraviglioso, bellissimo anzi, citando il titolo davvero, di Andrea Satta. Eccolo qui. La cena fuori non ti va, un gelato in due non ti va, e per il weekend cosa si fa? Al cine ti pregano, per carità. Avere un bambino e chi ce la fa? E darmi la mano per strada, ma va, ma va. Un inverno lontano, sul motorino ti ricordi, tanti anni fa eri leggera, era l'età. Ma sei sempre bellissima, bellissima. Lo so, lo so, lo so, lo so. E non sei romantica, romantica. Lo so, lo so, lo so, lo so. Eri come era la libertà, una farfalla in centro città. Mi faccio una pasta e non ti va, il tuo aperitivo, che crudeltà. Faccio una festa e te ne stai di là. Cosa c'hai in testa e chi lo sa. Facciamo sempre tutto a metà, un grandissimo amore diviso a metà, è un infinito che non ce la fa. Ma sei sempre bellissima, bellissima. Lo so, lo so, lo so, lo so. E non sei romantica, romantica. Lo so, lo so, lo so, lo so. E questo potere chi te lo dà? È il tuo codazzo, parapapà. E quando mi dici amore fatti più in là, io mi nascondo ma resto qua. E ok, e perché? Ma sei sempre bellissima, bellissima. Lo so, lo so, lo so, lo so. E non sei romantica, romantica. Lo so, lo so, lo so, lo so. Abbiamo in collegamento telefonico con noi quest'oggi qui a Zibaldone Eros Francescangeli, storico, uno dei fondatori del quadrimestrale Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale. È già stato tra l'altro nostro ospite per parlarci di un libro uscito qualche anno fa, Arditi del Popolo, Argo Secondari e la prima organizzazione antifascista 1917-1922. Quest'oggi ritorna a Zibaldone per parlarci del suo nuovo libro, uscito quest'anno, in questo 2023, Un mondo meglio di così, la sinistra rivoluzionaria in Italia 1943-1978, uscito per i tipi di Viella. Eros, innanzitutto bentornato, è un piacere riaverti con noi. Grazie, grazie mille a voi e saluto tutti quanti anch'io. qui dall'Italia. Ascolta, quando eri stato con noi anni fa a parlarci degli Arditi del Popolo, rimanevamo negli anni successivi alla Prima Guerra Mondiale, dell'antifascismo militante, quando il fascismo era stato fondato, e poi insomma il 22 proprio la marcia su Roma arrivava al governo, al potere in Italia. Ecco, in questo libro invece parti dagli anni praticamente successivi al fascismo, meglio dire insomma dagli anni della Resistenza, fino ad arrivare alla fine di quello che è stato definito il lungo ciclo dei 30 anni gloriosi, insomma termini nel 78, che è un anno anche molto simbolico per le vicende italiane. Sì. Sì, parto in realtà dalla Seconda Guerra Mondiale, o meglio dalla caduta del fascismo, quando cominciano a riorganizzarsi tutti i partiti politici, compresi il Partito Comunista, anzi i partiti comunisti, perché poi Bandiera Rossa, per esempio, a Roma pensava di essere il Partito Comunista ufficiale, poi scopre di non esserlo, e cioè il Movimento Comunista d'Italia, quello che diventerà. E io chiaramente non mi occupo in generale di anarchismo, comunismo e socialismo, ma mi occupo dal punto di vista politico, quindi né militare né sociale, né dal punto di vista dei movimenti o di altri ambiti di lotta, ma delle organizzazioni della cosiddetta sinistra rivoluzionaria. Dico cosiddetta perché è un'autorappresentazione, ovviamente, però anche sinistra riformista è un'autorappresentazione, e continuiamo a chiamare riformisti anche chi le riforme non le fa e non le ha mai fatte, e così come penso sia corretto chiamare rivoluzionari chi la rivoluzione anche non l'ha mai fatta, però si richiamava alcune esperienze dove la rivoluzione fu effettivamente portata avanti e appunto realizzata. Mi riferisco soprattutto all'ambito social comunista. Praticamente è quella che altri definiscono sinistra extraparlamentare, sì, estrema sinistra, nuova sinistra anche, sono tutte lemmi, espressioni valide, che però non ritengo al 100% adatte a rappresentare il soggetto, per una serie di ragioni, magari poi se vuoi ne parliamo. Quindi per capire di cosa parliamo, parliamo di anarchici, di comunisti e di socialisti che avevano in mente di fare la rivoluzione, quindi di usare anche metodi sovversivi, come si diceva negli anni 20, per rovesciare il potere borghese. Sono movimenti che si collocano geograficamente, geopoliticamente, a sinistra del Partito Comunista e del Partito Socialista. Non era tanto poi difficile nell'immediato dopoguerra, in epoca staliniana, insomma fino al 53, collocarsi a sinistra del Partito del Comunista, perché il Partito Comunista espelleva dal proprio seno parecchi movimenti, cioè tutto ciò che considerava non in linea, e quindi fin da subito si manifestano organizzazioni, anche riallacciando i fili con le organizzazioni precedenti. Io dopo Arditi del Popolo mi sono occupato anche dei trotskisti italiani negli anni 30, per esempio una delle prime organizzazioni insomma a riorganizzarsi sono i quarti internazionalisti, quindi i trotskisti, e insieme agli anarchici, anzi a vari gruppi anarchici, a vari, perché tra anarchici individualistici, anarcocomunisti e via dicendo, si organizzò anche ovviamente i bordighisti, e sono tutte organizzazioni che sono caratterizzate da una forte animosità e concorrenzialità tra di loro, non so, per ricordare il mitico brano di Monty Python sul fronte popolare di Giudea, di Brian di Nazareth, che si appunto si spaccano, usano a volte lo stesso nome o cambiano o hanno minime variazioni, questo succederà poi anche negli anni 60 con i maoisti, e danno via una serie di micro organizzazioni, micro partitini, in alcuni casi non proprio micro, come è il caso dei titoisti, il Movimento Lavoratori Italiani, insomma i cosiddetti magnacucchi, chiamati così, anche loro nati a causa di una scissione internazionale, cioè della rottura di Tito con Stalin, e così via. E arrivo fino al 68, perché ho ritenuto di periodizzare dal 43 e non far partire tutto dal 68, proprio per rovesciare uno schema che dura a morire, ma è uno schema che sostanzialmente viene ripreso dalla vulgata, dalla divulgazione storica, in cui ci sarebbe a un certo punto nella storia italiana un 68 movimentista spontaneo e anche allegro, che poi degenera nella lotta armata, non si sa perché, però in violenza politica, lotta armata, proprio a causa dell'organizzazione dei gruppi, perché nascono i gruppi, quindi 68 movimento, nascita dei gruppi, degenerazione. In realtà non è così, anzi io rovescio lo schema e non dico dimostro, lancio questa proposta interpretativa, sì, che è quella di vedere che forse è il 68 italiano che ha una specificità particolare, molto più politicizzato rispetto al francese che dura poco, al tedesco che ha un'altra storia, o anche all'inglese o all'americano, proprio perché è successo invece il contrario, che sono stati i gruppi politici che hanno preparato il 68. E questo andando a trovare le carte, non solo le carte di polizia, ma le stesse carte autorappresentative, penso ai Quaderni Rossi, alla rivista Classe Operaia, a tutte le riviste maoiste che nascono dal 62 al 66, e soprattutto alla corrente operaista, che è quella principale, l'operaismo politico, penso al Potere Operaio Pisano nel 66, 67, 68, si vede il dibattito, il famoso dibattito sull'organizzazione, che è del 67 sul Monthly Review, si vede che chiaramente è stato preparato da queste organizzazioni. È vero, poi il 68 ha un'enorme potenza, perché rimescola tutto, è una sorta di frullatore, di volano, di amplificatore di quello che c'era prima, e rimescola tutto. Basti certo pensare che il trotskista Brandirali, che stava con il gruppo trotskista Falce Martello, che si riferiva alla Quarta Internazionale, il maoismo italiano. Fonda la prima organizzazione maoista. No, la prima no, perché in realtà c'era già il Partito Comunista d'Italia, sì, marxista-leninista del 66, c'erano la federazione, insomma, come ho detto è dal 62 che si organizzano i maoisti, ma la prima organizzazione, diciamo, post-68, post-movimento 68, è che è a servire il popolo. Ora, ideologicamente il maoismo con i richiami a Stalin e il trotskismo stanno agli antipodi dal punto di vista ideologico, però è un classico caso di rimescolamento. Ecco, nei documenti di polizia si vede come c'è questo passaggio, come all'inizio Brandirali, anzi sposi anche una causa comune con Gian Giacomo Feltrinelli, c'è un noto convegno nell'estate, no, noto, non è molto noto, ma alla polizia lo era, e dove appunto pensano di fare questa organizzazione. Poi Feltrinelli verrà abbandonato, e nasce Servire il Popolo. E così succede anche in casa operaista, col Potere Operaio Pisano, che si frantuma e dà vita poi a Lotta Continua e a Potere Operaio. Pensiamo a Sofri e a Torinegri tra gli altri. Sì, quindi no, questo è molto interessante, questa ricognizione che tu ci stai facendo. Una questione che ti volevo domandare, poi ritorniamo anche sulle cose che stavi accennando tu, hai notato differenti ondate? Beh, ovviamente una è quella del 68, che al di là della vulgata di cui tu parlavi, ovviamente rimescola le carte e porta una nuova generazione anche nell'attivismo politico e sociale. Bravo. Questo è il vero valore aggiunto, cioè la sinistra rivoluzionaria prima del 68 era un fenomeno estremamente minoritario, lo sarà anche dopo, ma dopo avremo organizzazioni non di centinaia di persone, ma anche di migliaia, insomma Lotta Continua, il PDUP, il Manifesto, insomma, e quindi non dico che sarà un fenomeno di massa, ma influenzava certamente le masse, cioè, mentre prima era qualcosa di poco significativo. Il 68 porta questi gruppi che si erano rimescolati e rifondati 10 volte di più in termini di militanze, e soprattutto non erano militanti quarantenni / sessantenni, ma erano militanti 18 o 22 anni, insomma, quindi certo. E questo però rappresenterà anche un grosso problema, e si vedrà anche col rapido declino di queste organizzazioni che non avevano né memoria né storia. Infatti, su questo infatti volevo tornare, perché credo che è un punto importante. Abbiamo avuto anche recentemente ospiti qui a Zibaldone i Wuming, che ci hanno parlato del loro ultimo romanzo UFO 78, che ovviamente è un romanzo, però non è scelto a caso il momento storico, no? La primavera del 1978, e anche il tuo libro si chiude proprio che è il massimo di avvistamento di UFO, non esattamente a caso, esattamente. E quando c'è grossa crisi succedono queste cose. E effettivamente è quello che ci raccontavano anche i Wuming. Ecco, il tuo libro si chiude nel 78, perché hai scelto quest'anno, ovviamente simbolico, e perché non hai per esempio cercato di anche andare al di là in un momento, e poi arriviamo anche sulle ragioni di questa crisi posteriore, diciamo, all'apogeo, no, della sinistra rivoluzionaria. Allora, la crisi, in realtà la crisi è un processo, inizia prima, cioè chi dice che inizia già nel 73-74, in parte non hanno torto, non a caso appunto già la prima organizzazione, forse la più combattiva e rivoluzionaria di tutte, Potere Operaio, inizia a sfaldarsi nel 78. Io, facendo una storia delle organizzazioni, finisco con Potere Operaio, poi parlo di lotta continua, ma per esempio tutta la galassia dell'autonomia operaia anche organizzata non la tratto, perché non sono organizzazioni di tipo tradizionale. È un limite del libro, ce ne sono tanti, ma bisogna porre dei limiti, se no uno scrive la storia infinita, poi non trovi l'editore, perché tenete conto, già ho dovuto tagliare parecchio, insomma, per rendere il libro fruibile anche a un lettore che non solo specialista, ma anche se fosse un oggetto da specialisti, non si può scrivere un'opera in 10 volumi, no? Certo. E quindi bisogna porre dei limiti alla propria ricerca. Ecco, sulla periodizzazione, perché il 78? La crisi è iniziata prima, è continuata dopo. Io tratto in realtà anche, e lo dico, sarà la marcia dei 40.000 del 1980 a porre proprio un drastico stop. Però nel 1978 c'è la crisi proprio delle principali organizzazioni, i nodi vengono al pettine, cominciano a venire al pettine in lotta continua nel 76, con i festival del proletariato giovanile, sempre tra il 75 e il 77, Parco Lambro. C'è il 1977, che è una specie di 68, non so se per certi versi all'ennesima potenza, per altri un contro 68, perché qui l'effetto moltiplicatore e frullatore c'è nuovamente, ma si va a ribasso, o meglio, si impone una scelta: o lotta armata o smettere di fare politica, oppure rifluire sul privato, oppure fare politica in altri ambiti che non sono necessariamente quelli della sinistra rivoluzionaria tradizionale. Quindi dico la scelta istituzionale, che non è democrazia proletaria, che quella, se vogliamo, è l'unica esperienza che continua nel solco della tradizione della sinistra rivoluzionaria, senza cedere alle tentazioni del disimpegno o della lotta armata. Però politica in altri ambiti, penso al femminismo, all'ecologismo, a filosofie differenti, o anche all'adesione a un sinistra di tipo istituzionale, come fa il gruppo dirigente di Lotta Continua, che si avvicinano al gruppo di Martelli, Sofri e compagni. Ma molti si autoconsolano con l'autodistruzione, a suono di alcol, eroina o altro, oppure cercano vanno in Oriente, insomma, certo. È quello che si chiama riflusso, anche questo è un termine che da storico, insomma, va valutato criticamente, perché, come ho detto, non è solo riflusso, non c'è solo quello, l'autonomia continua, c'è il fenomeno dei centri sociali, quindi c'è anche una politica altra e anche radicale negli anni Ottanta, quindi... Però se bisogna proprio scegliere, è il 78, perché i nodi cruciale, sono già avvenuti tutti al petto, e poi c'è il caso Moro, che è proprio... la tomba di molte cose. Ascolta, Eros, a questo proposito, qualcosa hai già accennato, ma credo che sia importante ritornare su una questione chiave, no? Che io credo che non è solo legata alla sinistra rivoluzionaria italiana, ma a un momento storico e alle sinistre in generale, ossia e ai movimenti. Perché la crisi? Voglio dire, la crisi che si dà dal 73 in avanti e che sfocia poi nel biennio 78-80 in forma molto paradigmatica, no? Tra l'omicidio e Moro. La crisi c'è. Allora, sicuramente dipende anche da questa impazienza rivoluzionaria. Nel 68, immediatamente dopo, la rivoluzione sembrava alle porte. Molti di questi gruppi teorizzavano la rivoluzione non domani ma oggi. Si autogratificavano di questa impazienza rivoluzionaria e accusavano chi voleva attendere di attendismo, di essere, insomma. Quindi c'è questa questo approccio, diciamo, questa tendenza, che è una tendenza chiaramente anche dovuta al fatto di questa enorme, di questa enorme massa, diciamo, di questa nuova generazione che non aveva memoria, perché il grosso non proveniva da una tradizione proletaria di famiglia, era piccola media borghesia, insomma, erano universitari. Con questo non voglio gettare discredito, però oggettivamente venivano da famiglie non comuniste. E questo incide anche sul loro autorappresentare il 68 come origine di tutto, perché non avevano semplicemente memoria. Certo. Basta citare il fatto di Milano, dove con un gioco di parole c'è un passaggio da CL a LC. Ora CL non esisteva ancora, però esistevano i gruppi di gioventù studentesca di Don Giussani, e molto del gruppo dirigente milanese ha quell'esperienza cattolica alle spalle, come molti altri gruppi. Ma non cattolica con il movimento di Labor dei cristiani per il socialismo, cattolica proprio in gruppi collaterali all'Azione Cattolica o alle ACLI. Ecco, tutta questa generazione, cioè, all'improvviso si rende conto che la rivoluzione non era alle porte, e questo è un grande dato di fatto. Poi, due, non possiamo non prendere in considerazione che la strategia della tensione, cioè la risposta dello Stato alle provocazioni, a quelle che riteneva provocazione del sovversivismo, è un ricorso alle provocazioni, la strage del 12 dicembre 69 o altre cose. Steven, tu sai che io non sono un dietrologo, certo, chiaramente ne abbiamo avuto parlato spesso, modo di parlare, sì, certo, abbiamo anche un amico comune che io giudico tale. Bene, però e tutto questo ha un peso, è logico, ha un peso, certo, e ha delle conseguenze, cioè ci sono atti processuali, io stesso ho trovato dei documenti all'archivio centrale dello Stato dove si testimonia nero su bianco che lo Stato era a conoscenza, ad esempio, di queste false flag, di queste appunto azioni che facevano i fascisti indirizzando, appunto firmando, per esempio, Movimento Studentesco, Viva Mao, Viva Anarchia, dove quando piazzavano loro le bombe. Cioè, i prefetti lo sapevano e scrivevano al ministro, ci sono anche timbri visto dal signor ministro, dice no, in realtà sono gruppi neofascisti che vogliono addossare la colpa agli altri. È agli atti. Non c'è nessun documento ultrasegreto, se lo scriveva il prefetto Mazza, lo comunicava al gabinetto del governo, che si passavano queste carte, ma di fatto quando scoppia il 12 dicembre la bomba, indirizzano le loro indagini principalmente su Servire il Popolo, su 86, 87 sedi, una sessantina sono di Servire il Popolo, poi sugli anarchici, poi su altri gruppi minori, Potere Operaio e altri, e solo una piccola parte verso l'estrema destra. Sì. Poi è bello, tra virgolette, che gli stessi inquirenti dicono abbiamo utilizzato la cosa perché così abbiamo avuto conoscenza dell'effettiva consistenza dell'organizzazione, di questi gruppi, in particolare dell'UCI che interessava ed era la prima sospettata. Chi conosce Servire il Popolo, insomma, è un'organizzazione ridicola da questo punto di vista, non ha fatto nessuna azione, se non forse l'unico caso di violenza forte sono gli scontri di Via Larga, dove pare che fu appunto il servizio d'ordine dell'UCI a tirare questi tubi innocenti che poi colpirono un agente di polizia, agente Annaruma. Ascolta, ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa intervista, è un tema ovviamente che darebbe per parlarne molto di più, molto più a lungo. Ti volevo fare però un'ultima domanda, se possibile una risposta telegrafica, che riguarda il dopo, ossia qualcosa hai accennato, ma soprattutto guardandolo al giorno d'oggi, nell'Italia governata da Giorgia Meloni e dai fascisti al governo, a 40 anni e passa ormai dal 1978, ecco, cosa rimane di quella tradizione della sinistra rivoluzionaria che tu hai studiato in questo libro? Allora, cosa rimane? Non ho detto l'ultima questione che poi depotenzia questa, è proprio che manca questo nemico, cioè la guerra del Vietnam era finita nel maggio del 75, i Viet Cong raggiungono Saigon, c'era alcune dittature europee come quella portoghese vengono rovesciate e il Portogallo era un tema fondamentale, sì, per questi gruppi, soprattutto per Lotta Continua, e quindi cioè, viene anche meno un nemico cui combattere. Il maoismo viene rovesciato anche in Cina, dove i cosiddetti destri riprendono il potere e fanno fuori appunto la Banda dei Quattro e gli altri, e quindi siamo in un nuovo mondo, un nuovo mondo che poi porterà agli anni Ottanta, al reganismo e una pietra tombale sopra questa sinistra rivoluzionaria. Cosa resta? In termini organizzativi c'è solo un'organizzazione che tra l'altro prende proprio le mosse quando era ancora anarchica, i gruppi di azione, i GAP, insomma, dietro, quando era ancora anarchico, poi fondano insieme a Seniga ad altri il gruppo Azione Comunista, poi si scindono, cambiano nome e si chiamano Lotta Comunista. Quindi questa organizzazione, che è forse la principale, che si riaggancia a tutta questa tradizione, rimane. Ma diciamo che è un'organizzazione di tipo determinista, quindi antisoggettivista, attesista, e che un po', insomma, predica quello che si dovrebbe fare. Cioè, stavo leggendo... Sì. Sulla questione Israele-Palestina, dice, cioè, insomma, solo la rivoluzione proletaria e l'affratellamento di tutti i proletari porterà al superamento, certo, del nazionalismo. Sì, grazie, insomma, come dicono a Roma, sì, è ok, siamo tutti d'accordo, è come si fa, è il problema. Quindi è astrattezza allo stato, certo, puro. Cioè, del resto cosa resta? Restano invece gruppi, più che altro una galassia che non è organizzata a livello politico, è vero, poi c'è la FAI, c'è la sinistra anticapitalista, ci sono insomma gli anarchici, borghesisti, trotskisti, che non sono certo Lotta Comunista, fanno qualche iniziativa, cercano di intervenire, ma il peso specifico è molto... molto limitato. Ma qui il problema non è cosa resta della sinistra rivoluzionaria, è cosa resta della sinistra in generale, anche della sinistra riformista, quella, sì, sinistra forte, no? Cioè, sì. E non c'è, siamo in un deserto totale, insomma, cioè, sarò forse pessimismo, insomma, la ragione, però insomma, questa è la realtà, quindi sì, bisognerebbe ripartire con nuove categorie, bisognerebbe ritornare. Qual è il soggetto centrale della rivoluzione? È ancora la classe operaia qui in Occidente? O forse proprio perché questo tipo di diciamo strutturazione prevede appunto classe operaia contro borghesia, la partita si è spostata nel sud nel mondo, dove adesso avviene, sì, il grosso della produzione, potrebbe essere anche una soluzione, e qui si fanno le truppe ausiliari. Allora, non lo so, ci vorrebbe un ripensamento a livello globale e a livello anche poi italiano, e poi agire di conseguenza. Però questo è un lavoro che devono fare i politici, assolutamente, e non gli storici, insomma. Assolutamente, assolutamente. Ascolta, grazie, grazie davvero di essere stato con grazie noi. Grazie a voi. Eros Francescangeli, storico ed autore del libro che abbiamo presentato quest'oggi a Zibaldone, Un mondo meglio di così, la sinistra rivoluzionaria in Italia 1943-1978, pubblicato in questo 2023 dalla casa editrice Viella. Eros, a presto, un abbraccio. Un abbraccio anche a voi, grazie. Non ricordo se chi c'era. a queste facce qui. Non mi dire che è proprio così, non mi dire che sono quelli lì. Nuove catastrofi alla fiera internazionale dell'emergenza. Israele non avrebbe versato la cedolare secca sulla striscia di Gaza. Netanyahu è un caso, valutiamo altri percorsi. Meloni, manovra economica seria, è scoperta per caso 5 anni fa da ragazzi che rincorrevano il pallone. Corsa contro il tempo, anche senza cappuccino. Domani una nuova commissione d'inchiesta con l'Albania sulla scomparsa del servizio pubblico. Nicolò Brambilla, il leone che ha seminato il panico passeggiando per un pomeriggio intero a Belluno, nel Sassarese, dice decisivo mantenersi attivi con un corso di artigianato locale, di cucina o imparare una lingua e non chiudersi in casa. Balli sfrenati nel video che accompagna il gota del mondo arabo e musulmano riunito a Riyadh. Per l'Iran l'unica soluzione al conflitto è uno stato palestinese dalla Toscana al Veneto, anche senza la dispoli. È scontro durissimo tra Lega e sindacati sullo sciopero generale. William d'Inghilterra partecipa alla precettazione per evitare il blocco totale dei trasporti, guidando una canoa a 20 posti con una testa di drago a prua per difendere la sua vita. E avete sentito che sono tornate anche le ultimissime dopo Stupendo di Vasco Rossi, che abbiamo mandato in onda perché avete forse colto la citazione Un mondo meglio di così, era uno dei versi della canzone di Vasco Rossi, e da lì anche il titolo del libro di Eros Francescangeli di cui abbiamo parlato poc'anzi con l'autore. Banzo, le ultimissime del nostro Fausto De Salvia ci mostrano una realtà sempre più difficile da capire, direi. Incomprensibile, perché partendo dalla geografia, Steven, Belluno nel Sassarese, a me, vabbè, cioè, comunque c'è questo Niccolò Brambilla, questo leone così, sai, che è molto degno, sai, si presenta col nome e il cognome, terrorizza la gente, ma forse la terrorizza perché la gente non vuole ascoltare i saggi consigli che dà questo leone, vogliono rimanere insensati. E quindi diciamo che ne sono spaventati. Però, rimanendo alla geografia, questa proposta di uno stato palestinese dalla Toscana al Veneto va bene, ma anche senza la dispoli, beh, direi abbastanza, perché la dispoli è in provincia di Roma. Sì, non sarebbe un problema. Sì, no, diciamo che se queste sono le condizioni per risolvere il conflitto palestinese, ci manca soltanto l'approvazione delle regioni coinvolte. Non so come la prenderebbero, ad esempio, in Emilia-Romagna, perché passiamo di lì, poi i toscani, diciamo, il campanilismo toscano, ecco, forse non è ideale comunque. Sì. Nulla, io spero che Leone Nicolò Brambilla possa essere intervistato in una delle prossime puntate di Zibaldone. Ci pensiamo e ci proveremo. Banzo, andiamo a sentirci un brano di Io sono un cane. Vuoi dire qualcosa tu prima di mandarlo in onda? Beh, è un brano live, però non è quello che vi aspettate, perché questo live non è la solita celebrazione di una carriera. E ce l'andiamo a ascoltare. Ararat, lui è Io sono un cane, non ha bisogno ovviamente di presentazioni. Beh, un bel viaggio sperimentale, un viaggio corto quello che vi abbiamo proposto con questa Ararat di Io sono un cane, un live a Berlino 2022 nel disco Qui noi cadiamo verso il fondo gelido, che Banzo raccoglie proprio alcuni brani registrati nei concerti tra il 2021 e il 2022 di Io sono un cane. Sì, e come annunciavo prima del brano, è un po' diverso dai soliti live, che spesso sono una celebrazione della vanità dell'artista, o addirittura a volte della vanità del pubblico. È un disco che merita di stare appieno nella discografia di Io sono un cane, perché è in gran parte inedito. Molti dei brani che sono contenuti sono suonati dal vivo, ovviamente, ma sono nuovi, non sono noti al pubblico, perché in molti casi sono stati il risultato di improvvisazioni e di interplay nel momento stesso dei concerti. E una cosa interessante di questo disco, a parte il titolo bellissimo, è che appunto copre concerti nel lasso di un biennio, però con tre formazioni diverse. Due volte in trio con membri diversi ad accompagnare Io sono un cane, e anche in settetto, parola che si usa poco, cioè formazione a sette, la cosiddetta mandria, come veniva chiamata, cioè tutti i musicisti che avevano suonato su Ira. Quindi è un disco che effettivamente riflette anche la varietà di situazioni in cui Io sono un cane, è stato in tour in questo periodo. Sì, sì, sì, hai proprio ragione. Ascolta, noi in questa seconda parte e prima della chiusura di Zibaldone facciamo un po' questo siparietto sperimentale, perché dopo Io sono un cane andiamo indietro un po' di anni, torniamo proprio agli anni 70 con una piccola chicca. Sì, ma guarda, manda il brano e poi spieghiamo perché lo stiamo trasmettendo. È un brano del 1979, ma c'è una ragione d'attualità per riascoltarlo adesso. C'è sempre una ragione di attualità, bisogna dirlo, Banzo, hai proprio ragione. E andiamo ad ascoltarci, vuoi dire tu il titolo nel frattempo? Almeno questo sì, dai. Prati bagnati del Monte Analogo. Ce l'andiamo a sentire allora, eccola qui. Devo dire la verità, sto entrando in una specie di trance, non so se riesco a uscirne. Ma Steven, non è una brutta cosa, però assolutamente cerchiamo no. Di finire la puntata e poi ti lascio andare alla deriva. Allora, avevamo detto Prati bagnati del Monte Analogo, ma non avevo menzionato l'autore che è Francesco Messina, album uscito nel 79 per la mitica Cramps di Gianni Sassi. Sì. Praticamente uno split, perché il disco è accreditato a Messina, a Raul Lovisoni, però sostanzialmente Lovisoni si occupa solo della facciata B, quindi non c'è Lovisoni nel brano che abbiamo ascoltato, esatto. E la ragione di attualità c'è, non retoricamente, perché si tratta di un disco mitico della musica sperimentale italiana, quale vi abbiamo fatto sentire solo un estratto perché intero dura quasi 24 minuti, perché dopo 44 anni dall'uscita finalmente verrà suonato dal vivo. Ancora non è mai stato eseguito dal vivo. Questo evento avrà luogo il 21 novembre a Milano, all'Auditorium San Fedele, nell'ambito della LineCheck, conferenza musicale che si estenderà per 5 giorni, suonerà oltre a Francesco Messina, Michele Fedegotti, il pianista che aveva suonato anche nell'album originale, e quindi diciamo è un po' un unicum, come d'altronde lo è la carriera di Messina, che ha all'attivo solo 3 dischi, perché si è occupato, come Andrea Satta, che diciamo non pubblicava da molto tempo né da solista né con i Ted Dubois, perché alla fine è un pediatra. Messina è un docente di design e appunto ha questo output discografico molto limitato, sì, sì, molto eterogeneo, perché c'è anche un disco per bambini nella sua discografia e un album dalle sonorità più, diciamo, synth ottantiane, perché anche qui i sintetizzatori ovviamente la fanno da padrone. E per concludere sull'evento del live di Prati Bagnati del Monte Analogo, che è ispirato al libro Il Monte Analogo di René Dommal, pubblicato nel 52, rimasto incompleto per la morte dell'autore, questo live si terrà il 21 novembre e ad aprirlo sarà Marta Salogni, che è una produttrice di stanza a Londra, però ha anche dischi al suo attivo come Music for Open Spaces con Tom Relin, che eseguirà nel concerto di Prati Bagnati del Monte Analogo. Però qui si parla di spazi aperti, se vi piacciono le sonorità più claustrofobiche, sempre di Marta Salogni, andate a recuperarvi Le Bresta delle Grandi Profondità insieme a Francesco Fonassi, che è uno dei miei dischi preferiti del 2022. Non ve l'ho proposto perché è un po' fuori target per Zibaldone, ma un album straordinario. Bene, però il consiglio. Ascolta, siamo in ritardo, dobbiamo chiudere la puntata e dobbiamo anche ricaricare un po' i motori e uscire dalla trance, perché è venerdì pomeriggio, e andiamo a sentirci per, come ultimo trago, un brano della Sgrecas. Te lo lascio annunciare a te. Hace Frio Ya, ovviamente è una cover da una famosa canzone italiana. Beh, siccome siamo in trip, potremmo annunciarlo dopo la fine del programma. No, va bene, ok, lo annuncio adesso. Allora, sì, è una cover del brano di Nada, famosissimo. E perché ve lo stiamo proponendo? Perché il 17 novembre è il compleanno di Nada, che auguri, 70 candeline. Auguri quindi doppi. A volte, per dei tagli a altra parte, ci rifacciamo a queste ricorrenze da calendario. Nada, io l'ho vista dal vivo pochi mesi fa in forma strepitosa. E Las Grecas sono un nome mitico della certo. musica spagnola, diciamo all'ascoltatore italiano in due parole, in due. È un gruppo di flamenco rock. Ecco, qui poi ne parleremo un'altra volta perché dobbiamo chiudere. Banzo, a venerdì prossimo, e ricordiamo quello che era solito dire il sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che oggi sarebbe contento per la formazione del governo Sanchez, e che tutti i venerdì alle 17.57 cosa diceva? Comunque veramente, da Prati Bagnati del Monte Analogo alla Sgrecca, quello è il trip più grande. Assolutamente, ciao Banzo, stavi bene. Mama.